Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto. Non abbiamo fatto in tempo a ricordare la memoria del giudice Giovanni Falcone, saltato in aria 19 anni fa a Capaci con la sua scorta, che ci troviamo di fronte a delle notizie che vale la pena approfondire e che arrivano dal bel e ricco comune di Cento in provincia di Ferrara, dove il sindaco, ex sindaco, in questi giorni si è dimesso, insomma comunque fino a poche ore fa era capo dell'amministrazione, Flavio Tuzet, ha deciso, con una scelta abbastanza impopolare ma di cui ora daremo conto, di non intitolare come richiesto una piazza a Falcone e a Borsellino. Per cercare di capire il motivo, noi abbiamo chiamato ai nostri microfoni Flavio Tuzet. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, dottor Tuzet, perché lei si è opposto al cambio di intitolazione di questa piazza? No, io non mi sono opposto al cambio, io personalmente, ben inteso, ma intanto la piazza è stata intitolata circa 3 anni fa, o insomma nel 2007 credo, 2008, adesso non ricordo bene. Comunque nessuno si è opposto a Falcone o Borsellino. Cioè, noi abbiamo semplicemente detto, ma perché bisogna cambiare adesso l'intitolazione? Quella verrà fatta da un'altra parte, una via, una piazza, il prossimo giro diremo si fa, ecco, ma non c'è nessuna preclusione su questa vicenda. Ho capito, quindi non so chi l'ha messa in giro sta voce, perché qua qualsiasi persona può dire quello che vuole così, ma senza... Ma vede, noi proprio per questo chiamiamo, perché sulla stampa, lei lo sa molto meglio di noi, è apparso proprio chiare lettere dei titoli in cui si dice il sindaco dice no a Falcone e Borsellino, siccome siamo... La stampa purtroppo ha dei grossi meriti per certi aspetti, per altri anche delle colpe mica indifferenti, perché poi non si può dire sempre quello che si vuole per motivi politici, per interessi, per esempio, ma io guardi, qui addirittura avevo proposto, poi è uno scandalo micidiale, di intitolare, ma non perché sia meritorio, ben inteso, una via Adolfo Hitler, criminale come si dice a un poeta scrittore, così a ricordo, che si sappia che questo qui è stato un delinquente che ha rovinato ma quello ho capito la sua provocazione, ma voglio dire, quando lei ha pensato a questa idea, no, che è un'idea provocatoria, discutibile, opinabile come tutto al mondo, ma non poteva allora già allora magari pensare di intitolare una piazza a Falcone e Borsellino anziché tirare fuori Hitler? Ma sì, ho capito, però qua vede, qui c'era un orientamento anche francamente politico, poi c'è un parente, addirittura il figlio di uno dei questi fratelli Govoni qui, che era in comune, che aveva... Insomma, si è deciso così, ma non è che... Fratelli Govoni, ricordiamolo per chi non è di Cento, che appunto la piazza che avrebbe dovuto cambiare nome è intitolata ai fratelli Govoni, che insomma, la cui memoria spacca un po' la città in due. Certamente. Perché, ecco... Perché, scusi, certi dicono, ma questi qui erano persone brave, eccetera. Sì. Altri dicono, no, erano dei fascisti. Dei fascisti che hanno ucciso, eccetera. Ma questi studi che fa questa gente, che poi non so, sono degli storici o appassionati di storia, più che storici veramente, ma questi qui dicono, uno dice una cosa, uno un'altra, insomma... No, la verità poi non so da che parte stia, se verrà mai fuori. Comunque insomma una piazza, voglio dire. Ma io auguro che venga intitolata Falcone Borsellino, ma io, per l'amor di Dio, con quello che hanno fatto, col sacrificio della vita, ma si immagina. Cioè, però in quel momento lì abbiamo intitolato i fratelli Govoni, ecco, cosa vuol che le dica? Non è certo. Certamente, ma poi ci sono anche altre gente che meriterebbe, capisce? Però ecco, ci dica qualche nome, per esempio, chi è che meriterebbe a suo giudizio di essere ricordato a Ferrara con una targa? Lasciamo perdere Hitler, che forse non è il massimo della... No, ma non è, ma Hitler per dire ammonito, come c'è sempre anche in televisione adesso per ricordare l'eccidio di queste genti, insomma, per indicarlo come un criminale che ha fatto insomma un danno all'umanità incredibile. Per dire, capisce? Certo. Allora, questo sembra uno scandalo, sa, Invece Falcone e Borsellino, va bene, sono, anche loro sono dei martiri, ma anche altri sono stati uccisi in nome della libertà o di ricerche che hanno fatto, per, non dico solo contro la mafia, ma anche certo. altri interessi. No, effettivamente voglio dire, il mondo è bello perché è vario, però effettivamente quando magari ci si trova di fronte a delle contese sarebbe meglio pensarci prima, no? Piuttosto che dare adito a battaglie anche interne e spaccare in due la cittadinanza, forse trovare dei nomi che uniscono l'Italia, che uniscono tutti, sarebbe il massimo. Cosa ne pensa? Non c'è mica nessun problema. Grazie, buona giornata. Ringrazio in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Fagin e Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.